Ed eccoci dunque in Brasile, abbiamo visto le manifestazioni che sono incominciate il 2 giugno scorso, sono proseguite in tutto il mese di giugno, hanno avuto un apice, un risalto particolare anche a livello mediatico durante le partite della Confederations Cup che si sono tenute in Brasile fino a ieri, già ancora ieri notizia dell'ennesima manifestazione attaccata dalla polizia nei pressi dello stadio Maracanã di Rio de Janeiro e queste manifestazioni sono iniziate con delle rivendicazioni molto particolari, quelle espresse dal movimento Passi Libri, che significa movimento passaggio gratuito, ossia non vogliamo pagare il biglietto dei mezzi pubblici, una rivendicazione molto giusta e radicale che questo movimento, costituitosi nel 2005 nell'ambito del Foro Sociale Mondiale di Porto Alegre, porta avanti a livello nazionale da molto tempo, dal 2005, in alcune città come a Salvador nello stato di Bahia e a Florianopolis già dagli anni precedenti. In alcuni paesi è riuscito a diminuire, le sue lotte hanno riuscito a far diminuire il costo del biglietto dei mezzi pubblici, non a San Paolo, dove invece l'aumento di 20 centesimi del biglietto dell'autobus ha provocato poi la prima manifestazione il 2 giugno scorso. Le manifestazioni sono aumentate sempre più di partecipazione e hanno iniziato anche a essere represse molto violentemente dalla polizia, ma questa repressione invece lasciare a casa le persone ha provocato sempre più partecipazione, anche nuove cortei che rivendicavano la liberazione dei compagni, dei manifestanti arrestati spesso con anche delle accuse assurde. Ad esempio in una manifestazione del 13 giugno, una manifestazione che a San Paolo vedeva con la partecipazione di 10.000 persone, quindi immaginiamoci come i numeri siano via via aumentati molto lentamente. Ancora il 13 giugno c'erano solo 10.000 persone ed era comunque un buon successo per queste manifestazioni. Di queste 10.000 persone, ben 232 manifestanti vennero arrestati, alcuni addirittura prima dell'inizio della protesta, solo perché avevano con loro aceto nello zaino contro l'effetto dei gas lacrimogeni. Poi ci sono stati comunque scontri e repressione da parte della polizia, più di 100 persone sono state ferite in questo attacco poliziesco e in tutto appunto sono state arrestate 232 persone. Nell'analisi che abbiamo tratto da più articoli che sono girati in America Latina in questi giorni, che si interrogavano sulla composizione, il valore di queste proteste che sono diventate sempre più multitudinarie e che hanno inglobato altri temi al loro interno, abbiamo spesso trovato una constatazione, quella che a un certo punto, più o meno in corrispondenza della metà del mese, vedendo aumentare sempre di più la partecipazione alle proteste, i media nazionali hanno iniziato, oltre che a stigmatizzare i comportamenti più incompatibili con un tipo di manifestazione pacifica, hanno accusando appunto di la partecipazione dei delinquenti, di persone che vogliono solo esprimere la loro violenza eccetera, come siamo abituati a sentire anche qui, hanno iniziato a attribuire a queste manifestazioni un valore più generale che andava oltre a una rivendicazione molto materiale, anche molto anticapitalista, come quella del rifiuto del diritto a avere dei mezzi pubblici gratuiti, e hanno iniziato a dire che a sbandierare soprattutto la parola d'ordine contro la corruzione, insomma. E in queste manifestazioni hanno iniziato a partecipare anche tante persone che agitavano questi cartelli contro la corruzione, che sicuramente è un problema che riguarda tutti i paesi dell'America Latina in particolar modo, ma che insomma anche noi qui in Italia abbiamo una bella tradizione di corruzione, un tema che però tende a essere un tema fuorviante, che ci porta un po' a fare un discorso che possiamo identificare con la destra politica, perché se il problema fosse solo la corruzione, ossia comportamenti illegali all'interno delle normali trattative tra imprenditori e tra imprenditori e Stato, tutto si risolverebbe, solo i problemi di questo sistema economico, di questa società, si risolverebbero solo facendo rispettare questa legge. In realtà sappiamo che insomma anche quando non c'è corruzione purtroppo ci tocca lavorare 8 ore al giorno per 50 euro e magari non riuscire a pagare un affitto di 1.000 euro, quindi il problema forse va anche al di là della corruzione. Una corruzione che però è diventato un tema molto presente in queste manifestazioni, non l'unico naturalmente, e che hanno visto la partecipazione anche di strati più identificabili con settori di centrodestra della popolazione. Ricordiamo che al governo del Brasile c'è da ormai dal 2002 il governo del partito dos Trabalhadores, prima con Ignazio Lula da Silva e ora con Dilma Rousseff, che abbiamo criticato numerose volte da questi microfoni. Potete riandarvi a ascoltare le nostre vecchie trasmissioni sul sito comitato carlosfonseca.noblogs.org, ma che ovviamente ha anche oltre a essere attaccato da sinistra come facciamo noi, ha attaccato anche da destra all'interno del paese, soprattutto dal partito d'opposizione che è il Partito Socialdemocratico Brasiliano. E un successo contro la corruzione queste manifestazioni l'hanno ottenuta, infatti si scagliavano soprattutto contro una legge anticorruzione, una legge che secondo loro avrebbe facilitato la corruzione, ossia quella che assegnava solo alla polizia il potere di condurre delle indagini per questi reati, mentre oggi la normativa vigente in Brasile prevede che anche la procura, quindi organismi che non dipendono dal potere esecutivo, quali la polizia che dipende dal Ministero degli Interni, ma dal potere giudiziario, quindi hanno una sorta di indipendenza all'interno del quadro della società, dello Stato liberale, possono condurre le indagini. Questa legge è poi stata bocciata in Parlamento 3-4 giorni fa, e quindi è da considerarsi come un altro successo di queste manifestazioni. Negro fuera el sol, negra la mañana, negro el algodón, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro fuera el papa. Insomma, ci sono più anime all'interno di queste proteste. Mo non vorrei sembrare troppo negativo e che faccio apparire come proteste di destra quelle che ci stanno in Brasile. Ci sono molte organizzazioni tradizionali della sinistra che partecipano. Questo stesso movimento Passi Libre presenta delle rivendicazioni di sinistra, e nelle interviste che hanno rilasciato rivendicano la loro appartenenza a quest'area. Insomma, rivendicare la gratuità del trasporto pubblico mi sembra una rivendicazione molto radicale e condivisibile. Questa organizzazione Sì, anzi, la composizione del movimento Passe Libre è una composizione per lo più studentesca che sin, diciamo, dai primi passi che è andata a muovere. È vero che partiva da una protesta sulla gratuità del trasporto pubblico, ma ha sempre accompagnato a questo discorso un discorso più ampio che riguardava la giustizia sociale in generale, anche appunto in quello che era stato portato avanti prima di queste grandi manifestazioni con cui si sono fatti vedere pubblicamente. Esatto, e comunque c'è stata una partecipazione di ampi strati della società brasiliana, però se poi andiamo a vedere i video delle manifestazioni in un paese prevalentemente nero e meticcio, balza subito agli occhi la larga maggioranza di persone bianche, di pelle bianca, a queste manifestazioni, che comunque testimonia anche la partecipazione, la presa di parola di un ceto medio che in Brasile si è molto allargato in questi 10 anni di sviluppo economico, che ormai comprende più della metà della popolazione brasiliana. Tanti hanno preso parola anche per condannare rivendicare queste manifestazioni, come spesso avviene anche qui da noi. Poi in questa occasione, in cui c'erano delle partite di calcio, che sappiamo come sia il Brasile il paese che vanta la più sfolgorante tradizione calcistica, anche gli ex campioni del passato hanno preso parola. Questo una piccola nota di colore per il campione per eccellenza Pelé ha attaccato queste manifestazioni, ha detto che lui è anche credo che abbia anche un ruolo rappresentativo per quanto riguarda la FIFA, e ha detto che queste manifestazioni erano manovrate da violenti. Anche il meno sfolgorante campione Ronaldo ha preso parola con una frase che vi faccio ascoltare, perché testimonia tutta la sua ignoranza e che merita veramente di essere mandata in diretta. Receber a Copa do Mundo sem estádio não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Senza stadi non si fa la Coppa del Mondo, non si fa la Coppa nel mondo negli ospedali. Questo è stato la grande genialata, il grande contributo che ci ha dato Ronaldo. Insomma, questo perché? Perché la critica, una delle critiche maggiori che sono state fatte, una delle rivendicazioni maggiori durante queste proteste che avvenivano proprio fuori degli stadi, è stata sintetizzata da uno slogan, da un manifesto efficacissimo: per la Coppa del Mondo sono stati spesi 33.000 miliardi di reais, per le Olimpiadi ne vengono spesi 26.000 miliardi, Olimpiadi che si terranno a Rio de Janeiro tra 3 anni, e il salario minimo sta a 678 reais, non vengono costruiti ospedali, c'è una 668 reais sono $300, così per farci un'idea. un livello del salario minimo molto basso per un paese che ha visto aumentare anche molto il costo della vita in questi anni di sviluppo, non dimentichiamolo, gli affitti, poi daremo i dati, sono aumentati notevolmente. Quindi insomma, dire che se volete la Coppa del Mondo dovete rinunciare alla salute mi sembra proprio una cazzata che Ronaldo si poteva risparmiare. Invece ha preso parola un altro campione che poi è diventato deputato per il Partito Socialista, quindi forse la sua presa di parola non è così lontana da tentativi di accreditarsi verso la grande massa di persone che hanno partecipato e appoggiano queste proteste, ossia Romário, che è diventato deputato con il Partito Socialista, che appoggia il governo di Dilma Rousseff, e Romário invece ha difeso chi protestava e ha detto che sono stati spesi veramente troppi soldi per la costruzione di questi stadi e che c'è stato un grosso livello di corruzione. Anche qui questa il ritorno di questo tema e che questi soldi invece andrebbero spesi per altre politiche, per la salute, per l'educazione, eccetera. E la presidentessa Gilma Rousseff una settimana fa è uscita con una proposta che sembra raccogliere parzialmente le proteste che sono state fatte, ma probabilmente è un tentativo per farle calmare, per evitare che proseguino. E ha proposto 5 grandi patti, li ha chiamati: un patto per la salute, uno per la corruzione, uno sull'educazione e uno un grande patto politico che prevede un referendum sull'inizio di un processo costituente che renda il sistema politico brasiliano più partecipato e più partecipativo. Va detto subito che questa proposta è stata già cassata dagli alleati del PT e di Gilma Rousseff al governo, che hanno detto che non se ne parla proprio e che al massimo si può fare un plebiscito, un referendum su alcuni tre temi, solo su alcuni temi di riforma politica. Il gol di Albertini, Romario ora per il Brasile. Pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. É, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. E la canzone che abbiamo appena sentito ha una storia particolare, era infatti la canzone che si sentiva negli spot della Fiat. Sappiamo che il Brasile è il paese dove la Fiat realizza la maggior parte della sua produzione, più del 30% della sua produzione di autoveicoli avviene appunto in Brasile. San Paolo è una capitale industriale dello stato continente brasiliano. E questa canzone che si intitola appunto Andiamo in strada, che per la Fiat intendeva andiamo in strada con la macchina, con l'automobile che possiamo comprare nelle nostre concessionarie, invece è diventata la canzone e anche ora non so come funzioni Twitter, ma credo che ci siano delle parole chiave precedute da un cancelletto, è diventato anche la parola chiave che copriva tutti gli interventi su Twitter che chiamavano alla partecipazione alle manifestazioni dell'ultimo mese in Brasile. Quindi c'è stato un riutilizzo di uno slogan, di una canzone tipicamente capitalistica, di una grande impresa tra l'altro del nostro paese, che è stata utilizzata dal movimento di protesta in Brasile. E proviamo a dare intanto anche un quadro generale breve di qual è la situazione del Brasile. Stiamo parlando di uno stato enorme, sostanzialmente di un continente in cui abitano 190 milioni di persone, per cui non un posto semplice. Stiamo parlando anche di uno stato che sostanzialmente da 5 secoli vive un regime di schiavitù più o meno celata a seconda dell'epoca storica, per cui oggi la possiamo definire meno celata. Ma perché parliamo ancora di regime quasi di schiavitù? È vero quello che stavamo dicendo prima, per cui negli ultimi 5 anni le politiche del PT, del Partito dei Trabalhadores, hanno permesso al 10% diciamo della popolazione più povera di entrare in quelle che sono le schiere della classe media. e così come 18 milioni di persone sono state iscritte a quello che è il programma Bolsa Famiglia, che sostanzialmente dà un salario mensile di 64 reais, che ricordiamo sono circa 30 dollari, sostanzialmente niente, alle famiglie che ne guadagnano meno di 70 al mese, quindi meno di 30 dollari al mese, per un totale di 60 dollari al mese. Per cui stiamo parlando di una condizione molto difficile in un paese in cui appunto il salario minimo è di 300 dollari al mese. E questi programmi tra l'altro caratterizzano soltanto quelle persone che esistono per lo Stato, perché un altro fenomeno tutto brasiliano, non solo forse tutto brasiliano, è che tantissime persone, specialmente chi vive nelle periferie, quelle che definiamo favela, non esistono neanche per lo Stato, non sono censite, se muoiono è morto un nessuno, se nascono è nato un nessuno, cosa che ha permesso politiche di gestione di queste periferie assolutamente allucinanti, le quali magari faremo un accenno, ma forse no. E continuando con dei dati che riguardano il Brasile, parliamo del fatto che per esempio il 20% della popolazione giovanile tra i 15 e i 24 anni non lavora né tantomeno ha accesso all'istruzione. Parliamo del fatto che 1.400.000 bambini, cioè tra i 5 e i 14 anni, lavorano, quindi sfruttamento del lavoro minorile è, diciamo, all'ordine del giorno. Parliamo del fatto che il 50% delle terre coltivabili sono in mano all'1% della popolazione, che l'85% delle terre del paese sono utilizzate esclusivamente per la soia, il mais, la canna da zucchero, il mangime per le mucche, sostanzialmente sono in mano alle grandi esportazioni. E tra l'altro di tutta questa grande rendita, sostanzialmente il valore, l'85% del valore di questa produzione è in mano sempre a un 5% della popolazione brasiliana. Quindi stiamo parlando di un livello di diseguaglianza sociale elevatissimo. Stiamo parlando del fatto che questo agronegozio, cioè questa costante espansione delle grandi coltivazioni, ha comportato, come ne abbiamo discusso qualche settimana fa, un aumento esponenziale degli sgomberi, specialmente delle popolazioni indigene, ma non solo delle popolazioni indigene, dai propri territori, nonché ha comportato un enorme aumento della disoccupazione e un'urbanizzazione ingestita con queste città come San Paolo, che contano 11 milioni di abitanti, che per lo più vivono in condizioni allucinanti, in case di fango, mentre i quartieri dei ricchi sono circondati da muraglie, filo spinato e telecamere, e ti controllano i documenti all'ingresso come una frontiera tra paesi quando devi andare a lavorare all'interno del quartiere, cosa che, aggiunta al problema dei mezzi pubblici, forse rallenta il famoso spostamento di cui parlavamo anche all'inizio. Eh sì, sono temi che abbiamo affrontato tante volte, insomma, quello delle grandi coltivazioni di canna da zucchero, soia, e sono quelle degli agrocombustibili che abbiamo affrontato anche qualche settimana fa. E poi il Brasile, insomma, come tutti i paesi dell'America Latina, c'ha queste grandi disuguaglianze tra i super ricchi, e addirittura ci sono delle persone che sono schiave nel vero senso della parola, cioè non è che lavorano come degli schiavi, no, sono proprio schiavi, cioè sono proprio di proprietà dei loro datori di lavoro, i loro proprietari in questo caso. E ogni tanto c'è il caso eccezionale che è stato scoperto un laboratorio dove erano impiegati 30 schiavi. Si stima che ci siano almeno 200.000 lavoratori in condizioni di schiavitù in Brasile, appunto, delle cose che siamo abituati a pensare come roba al massimo dell'Ottocento. Tra l'altro il Brasile è stato uno degli ultimi paesi a illegalizzare la schiavitù nel 1880, invece. Sì, schiavitù che è stata presente poi fino agli anni 30-40 ufficialmente, vediamo ancora oggi. Ancora oggi c'è, insomma. Sì, e poi qual è invece la risposta del PT? Il PT, che nasce come un partito di estrema sinistra, un partito tra cui fondatori appunto abbiamo Lula, l'ex ministro brasiliano, nonché Chico Mendes, andava ad occupare le terre insieme ai contadini, quindi un partito che nasce dall'estrema sinistra e che poi si è rivelato negli anni del governo, quindi tra il 2003 e il 2010, una normale socialdemocrazia occidentale, una socialdemocrazia estremamente schierata poi nelle pratiche economiche con il modello neoliberista affermato a livello mondiale. E questo lo possiamo dedurre per esempio dagli ingenti investimenti che il Brasile sta facendo in queste mega opere, appunto nei mondiali e nelle Olimpiadi, ma anche così dai programmi di investimento del governo. Tra questi citiamo questo Startup Brasil, perché ovunque si clicca su internet compaiono articoli di elogio da parte di mezzo mondo. Cosa consiste? Startup è la fase iniziale di creazione di un'azienda, e Startup Brasil vuole promuovere la creazione di aziende che lavorano nel settore tecnologico per favorire lo sviluppo tecnologico. Parliamo di investimenti ingentissimi, parliamo di $100,000 di aiuto statale per ciascuna azienda che inizia, e di queste per adesso delle 909 imprese straniere che sono riuscite ad ottenere questo bonus, ne abbiamo la maggior parte nordamericane, quindi anche questi programmi di investimento vediamo in che direzione sono tesi. Questo anche perché il Brasile sta diventando una delle mete di investimento più ambite in generale nel mondo, anche per via della recente scoperta di nuovi pozzi petroliferi al largo delle coste di Rio de Janeiro. A questo proposito faccio una, perché poi sembra che queste, insomma, queste proteste raccolgono sempre più che altro dei risultati che sono dei tentativi di farle calmare, però già dei risultati li hanno ottenuti, è bene ricordarlo perché sennò sembra che uno protesta e non ottiene mai niente. Ad esempio, per quanto riguarda questi nuovi giacimenti petroliferi scoperti a largo delle coste brasiliane, la presidenta Gilma Rousseff ha detto che il 100% delle royalties che lo Stato brasiliano riceve su questi giacimenti, ossia l'8% di ogni barile di petrolio estratto e venduto alle multinazionali, perché solo l'8% poi va allo Stato brasiliano, il resto se lo pappano la Shell, Esso, eccetera eccetera, questo 8% andrà direttamente tutto alla salute e all'educazione, e quindi diciamo un piccolo stanziamento che è stato fatto. Naturalmente è una cosa che risponde solo parzialmente alle rivendicazioni fatte, ma è comunque qualcosa che è stato ottenuto, e se non ci fosse stato niente non sarebbe arrivato. Sì, infatti, anche perché queste rivendicazioni che stanno andando avanti non sono rivendicazioni che chiedono una riforma, anche per questo le risposte di Dilma Rousseff sono in parte anche inefficaci, perché quello che si chiede non è una riforma ma un cambiamento radicale, per questo si rivelano anche fallimentari i tentativi dell'opposizione di manovrare altrimenti o di provare a imporre altri discorsi che non sono quelli delle persone che si trovano in piazza. Tra l'altro, tra i risultati, anche nello specifico per quanto riguarda i biglietti dell'autobus, sono riusciti ad ottenere il ritiro dell'aumento dei biglietti, che però viene recuperato a prezzo di un ulteriore investimento pubblico, investimento in un settore sostanzialmente controllato da tre sole aziende private, privatizzato a metà degli anni 90, decennio della privatizzazione, e le quali imprese sono estremamente a carattere mafioso, non garantiscono alcun tipo di servizio efficiente. E comunque anche questa rinuncia appunto all'aumento, che viene recuperata da un altro lato, sostanzialmente viene recuperata attraverso imposte, per cui butti fuori dalla finestra, rientra dalla porta e l'aumento lo pagheranno, per cui speriamo che queste proteste continuino ad andare avanti e ad allargarsi sempre di più, e speriamo anche che riescano a prendere una forma anche più organica nelle rivendicazioni. Questo faccio riferimento a un articolo di uno studente dottorando di San Paolo, che vede forse tra i limiti di una protesta che chiaramente è esplosa in poco tempo, era in attesa da tutti i settori in generale, era in attesa anche agli occhi del resto del mondo, che vedeva in questo momento il Brasile nella sua fase di miracolo economico e di sviluppo, e Dio quanto siamo un paese felice. Comunque il limite che ci vede è proprio questa richiesta, che è vero che è un grido forte contro la disuguaglianza, ma che non si riesce ancora a caratterizzare bene politicamente, che ancora ha delle difficoltà anche a capire esso stesso quanto è radicale in ciò che afferma. E ora volevo parlare un po', visto che comunque abbiamo visto tante queste proteste sono avvenute nell'ambito della Confederations Cup e hanno preso di mira anche le spese e le opere costruite in vista dei mondiali dell'anno prossimo e delle Olimpiadi di Rio del 2016. Abbiamo parlato in tante trasmissioni degli sgomberi delle favelas, che poi sembra che il problema che noi siamo a difendere il fatto che queste persone vivano nelle baracche, il problema è che questi li sgomberano delle baracche, non è che le case che ci costruiscono sopra poi gliele danno a loro, no, loro continuano a vivere nelle baracche, solo in un'altra zona, sempre più ai margini della città, mentre quelle zone che una volta erano ai margini e che ora sono centrali vengono rivalutate, insomma come è avvenuto in tutte le città del mondo, anche qui a Roma. Nella prima parte del Novecento. E se non riesci poi a spostare le baracche in un posto dove non siano visibili alle frotte di turisti che sono attese per quel periodo, metti dei bei muraglioni a largo ai due lati della strada, così non vedi le baracche a destra e a sinistra, arrivi al centro della città e ti senti la coscienza a posto. E questo è quello che effettivamente stanno facendo a Rio, costruendo meravigliosi muraglioni con disegnati degli uccellini, così da non poter vedere la devastazione che ha ai lati. E questo appunto degli sgomberi lo citiamo perché questo modello di sviluppo tanto favorito e tanto cantato, per cui attraverso questi investimenti stranieri si dovrebbero creare 170.000 posti di lavoro, 170.000 posti di lavoro poi su sta popolazione da 120 milioni, che comunque ci lascia un po' perplessi come dato, ma detto questo, vabbè, il solito ritornello quello dei posti di lavoro, insomma ogni volta sì, che cedevano propina, il danno reale è effettivamente più grande. Eh sì, e poi diamo qualche cifra, per esempio a Curitiba l'ampliazione dell'aeroporto e dell'opere dello stadio Joaquim Americo Guimarães minaccia più di 2.000 famiglie, altre 6.900 saranno sgomberate a Belo Horizonte per la costruzione di strade, hotel, centri commerciali e altre infrastrutture. A Fortaleza 5.000 famiglie perderanno la loro casa per diversi progetti di trasporto pubblico e 15.000 per altre sistemazioni urbanistiche legate al mondiale. A Rio altre 3.000 costruzioni abitative saranno impattate dai progetti per le Olimpiadi, mentre a Sao Paolo si stima che solo nei pressi del futuro stadio del Corinthians e dell'aeroporto internazionale di Guarulhos ben 4.000 abitazioni saranno colpite e ne saranno minacciate altre 6.000, e quindi così via per tutte le opere che riguardano questi mega eventi sportivi. E spendiamo anche qualche parola su come poi si realizzano questi mega eventi sportivi, perché spesso anche nelle pubblicità viene fatto vedere come questi mega eventi abbiano una partecipazione popolare enorme, come sì, tutta la popolazione ospitante sia contenta di poter assistere direttamente al mondiale, alle Olimpiadi, e ancor di più in Brasile, dove appunto c'è questa tradizione di tifo e di partecipazione calcistica ormai secolare. Ma poi questi mega eventi riproducono un modello elitario di fruizione di uno spettacolo che insomma è quello che sta avvenendo, si sta affermando anche in Brasile. Ad esempio per quanto riguarda la sistemazione del celebre stadio di Maracanã di Rio de Janeiro, lo stadio che era più grande del mondo, che poteva ospitare ben 155.000 persone, ora è stato risistemato secondo gli standard della FIFA e ne potrà ospitare appena 78.000. 78.000 però posti seduti, con la tribuna per i VIP, la tribuna per la stampa, 78.000 posti che però costano un 300% in più dei vecchi posti, per cui di fatto i brasiliani probabilmente non andranno a vedere le partite dei mondiali, visto l'aumento ingente del costo del biglietto. E questo anche è illuminante nel momento in cui ci aspettiamo che fossero i primi spettatori e invece saranno i primi a non poterla vedere. Eh sì, e ora abbiamo anche sforato di parecchio, ringraziamo i compagni di Impatto che ci hanno donato questi 10 minuti del loro spazio radiofonico. Noi ci risentiamo lunedì prossimo sempre alle 16:30 su Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Questa trasmissione la metteremo presto sul nostro sito internet comitato carlosfonseca.noblogs.org. Salutiamo a tutti e a tutte quelle che ci hanno seguito e ascoltato anche quest'oggi, in particolar modo chi lo ha fatto privato della propria libertà personale. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos.